a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e i Blu Radio Veneto. Ritorna l'appuntamento con A Regola d'Arte, la trasmissione in collaborazione con l'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Un saluto a tutti da Francesco Galante. E la cominciamo parlando di un bel progetto che si intitola Impariamo di Gusto. Con noi al telefono abbiamo Nicola Trentin, presidente dei produttori alimentari di UPA. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questo progetto che si chiama Impariamo di Gusto. È un progetto interessante che è rivolto ai bambini degli asili e delle scuole materne. Sì, allora è un progetto che tra l'altro si ripete già ormai da una decina d'anni. Uh-huh. È un progetto che stiamo portando avanti appunto come UPA all'interno delle scuole, prevalentemente le scuole materne del territorio dell'ULS 6, da quest'anno del territorio dell'ULS 6. E niente, praticamente facciamo giocare, facciamo divertire i bambini nelle attività che comprendono tutti gli alimentaristi, a partire dai panificatori, pasticceri, gelatieri, pizzaioli, cioccolateria, e quest'anno c'è anche una novità, quest'anno faremo anche dei laboratori dove i bambini faranno il formaggio. Ah, che bello! Quindi, insomma, un po' tutti quei lavori artigianali dove si manipola il cibo. Sì. Sì, sono tutti i lavori dove si manipola il cibo, dove i bambini possono, attraverso il gioco, che è quello di fare delle forme che a loro, dove si può, logicamente, perché con il cioccolato, per esempio, è un po' difficile dare per il bambino dare sfogo alla propria fantasia, no? Sì. Mentre sulla panificazione, mentre sulla pasticceria con il biscotto riescono a dare forma, a dare sfogo alla propria fantasia, per cui giocano come fosse un didò, un dash, una pasta di sale, fanno le forme dei loro beniamini molto spesso, no? Sì, oppure fanno il sole, le bambine fanno i cuori, tutte queste cose qui, e poi noi il pane lo facciamo lievitare, lo cuociamo, i biscotti li cuociamo, il cioccolato chiaramente diventa, si indurisce e poi lo mangiano. E il gelato invece aiutano, per esempio, il gelatiere a preparare, sbucciano i mandarini, sbucciano le arance, rompono i pezzi di mela, tutte queste cose qui, no? Per cui cominciano a capire come viene fatto il gelato, che il gelato non viene fatto per esempio con una bustina, ma viene fatto, si parte dalla frutta, si rompono le nocciole, tutte queste cose qui. Come dovrebbe essere poi effettivamente il gelato? Ahimè, per tanti anni abbiamo mangiato dei gelati così venduti come gelati artigianali, e di artigianale avevano ben poco. Assolutamente sì, tutti preparati con monogliceridi, con addensanti, tutte queste cose qui che a lungo andare creano tutti questi problemi che insomma abbiamo. Però al di là di questo è giusto che il bambino capisca, no? Che dopo non venga fuori. Mi ricordo c'era un bambino una volta in un paese qui vicino a me che ha chiesto alla maestra se la mucca è viola, no? Perché era abituato alla famosa mucca. Sì. E ecco, il bambino deve capire fin da subito, secondo noi è giusto che riesca a capire anche da dove arriva, no? Quello che lui trova nella tavola tutti i giorni. Certo, è un bellissimo progetto. In particolar modo le scuole materne che vengono coinvolte sono quelle della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne, proprio con la collaborazione dell'USL, che come dicevamo, e dell'Unione Provinciale Artigiani Confartigianato. Che cosa resta ai bambini? La consapevolezza appunto produrre qualche cosa con materiali buoni, che è un po' l'idea di quello che dovrebbe essere il prodotto artigianale. Sì, poi anche cosa che non ho detto, ma che è molto, molto importante ed è presente anche durante tutti i laboratori, sono il personale dell'ASL, delle ULS, una nutrizionista e la dottoressa dell'ULS, sono presenti durante i laboratori, spiegano l'importanza dell'igiene, alimentare, di quando si produce si fa qualcosa, no? Si lavora con gli, alimenti, bisogna lavarsi le mani, a loro gli verrà dato un grembiolino in maniera tale che poi se lo portano a casa, no? E quando sono a casa hanno, con il grembiolino aiutano la mamma e via dicendo, gli verrà dato un diploma dove anche il bambino è contento, no? Diventa diplomato in panificazione, pasticceria e via dicendo, e poi gli viene spiegato prima di ogni laboratorio tramite delle slide, la dottoressa Casazza spiega tramite delle slide tutto il processo di lavoro e le materie prime che vengono utilizzate durante quel laboratorio, per cui se parliamo di pane, i campi, il frumento, la farina, il sale, il lievito e via dicendo. Per cui sono due ore, quasi tre ore, abbastanza, per loro sono impegnative ma nello stesso tempo giocose, e gli rimane, perché spesso io anche quando vado a prendere, perché li facciamo anche nei laboratori sulle scuole dove ci sono le mie bambine, quando le vado a prendere mi chiedono quando facciamo il laboratorio, perché loro aspettano questa cosa qui, si ricordano, no? Certo, quindi abbiamo detto che è un laboratorio, sono delle proposte che ritornano, impariamo di gusto è il titolo del progetto. Quando è che siete già partiti anche per quest'anno? No, allora abbiamo l'incontro definitivo con le dottoresse la settimana prossima, e a breve partiranno i laboratori, se non mi ricordo intorno a febbraio, metà febbraio più o meno, fine febbraio. Adesso la data di preciso non ce l'ho sotto mano e non la ricordo, però sì. Parte. Bene, se ci fossero delle scuole interessate, magari la cosa migliore da fare è chiedere notizie direttamente alla FISM oppure all'UPA? Sì, possono chiedere notizie, sicuramente se gli fa più comodo, alla FISM, oppure chiamano direttamente in sede UPA, Confartigianato Padova, e chiedono informazioni e sicuramente verranno indicate nel migliore dei modi. Va bene, grazie quindi a questo bel progetto, grazie a Nicola Trentin, presidente dei produttori alimentari di UPA. Grazie a voi. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy? Drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your strings. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy? In my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Take it. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. In questa seconda parte di A Regola d'Arte parliamo ancora di artigiani e parliamo degli odontotecnici. Abbiamo con noi Andrea Meneghini, presidente del sistema di categoria odontotecnici di UPA. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, di solito quando si parla di artigiani la prima cosa che viene in mente è il fabbro piuttosto che il falegname, però insomma anche l'odontotecnico è un artigiano. Certo che sì, l'odontotecnico praticamente era proprio un artigiano a tutti gli effetti, perché passava dalla metallurgia per la costruzione di ponti e corone alla chimica con le resine metacriliche, alle dentiere diciamo, ecco, sì. Per la gente meno addetta ai lavori. È un artigiano anche se l'odontotecnica è un'attività chiusa. Cosa vuol dire chiusa? Vuol dire che non può vendere al pubblico, ma può vendere soltanto agli odontoiatri o ai medici dentisti e su prescrizione medica. Quindi è poco conosciuta proprio per questo dai più, dalla gente insomma. Ecco. Quindi sarebbe bello anche spiegare chi è l'odontotecnico e la figura dell'odontotecnico. Facciamolo allora. Dunque, l'odontotecnico è colui che realizza le protesi per la gente, per i pazienti. Le realizza, come ho detto prima, su una richiesta medica, quindi da un'impronta che arriva dallo studio. E nel laboratorio odontotecnico moderno, diciamo, si avvale di tecnologie molto molto vecchie. Pensiamo che i primi a fondere l'oro per i denti furono gli etruschi, ma anche attrezzature molto tecnologiche e moderne, come scanner, quindi scanner 3D e come anche macchine di fusione di precisione e meccaniche anche d'alta qualità. Questo è quanto per fare un panorama del laboratorio odontotecnico. Certo, quindi il medico dentista fa il calco dei denti, fa una prescrizione d'ordine, diciamo, e poi sì. Sta nella bravura proprio dell'odontotecnico a riuscire a mettere insieme le cose e a far venire fuori l'apparecchio che poi serve a rimettere a posto la nostra bocca piuttosto che la dentiera per sostituire certo. I denti. Certo. E su questo caso qui vorrei precisare una cosa. Dietro a un bravo dentista c'è sicuramente un bravo odontotecnico. I due devono essere abbinati assieme. Purtroppo ci sono situazioni di laboratori esteri, dall'India, dalla Cina, se ne sono sentiti parlare anche in Francia in maniera eclatante un anno e mezzo fa, dove anche centri dentali, professionisti odontoiatri si avvalevano di competenze odontotecniche diciamo fuori l'Italia. E il valore aggiunto degli odontotecnici confartigianato è che comunque devono sottostare delle leggi europee ed italiane, quindi devono fare una conformità che viene rilasciata dal medico e diciamo sono responsabili del lavoro. Quando ci si avvale degli odontotecnici extraeuropei, diciamo, tutto questo viene a meno, che non è più una garanzia per il paziente. Mi sembra di capire che anche qua c'è il problema dell'import, no? Cioè, come ormai abbiamo quasi tutto made in China, nelle cose normali che siamo abituati ad utilizzare quasi giornalmente, anche la nostra dentiera potrebbe arrivare dall'estero. Sicuramente sì. E quindi non c'è solo i viaggi della speranza odontoiatrica quanto riguarda la Croazia, quanto riguarda l'Ungheria e i paesi dell'est, ma anche delle protesi costruite in Italia. La Francia insegna che centri addirittura statali, cioè con la convenzione dello Stato francese, adoperavano protesi che non erano poi così tanto buone, anche perché per una questione economica magari usano dei materiali non proprio diciamo adatti al cavo orale. Questo è un problema per il paziente, poi perché ci sono allergie, ci sono compatibilità con altri materiali che sono in bocca e quant'altro insomma. Quindi è una scelta importante anche quando si deve mettere la dentiera, sapere che cosa metto in bocca. Sì, io vorrei focalizzare una cosa a favore del paziente. Sì. Il paziente può richiedere la conformità della protesi. Allora, noi come odontotecnici abbiamo l'obbligo di legge, per la 9342 che è una legge di direttiva europea, di fornire a ogni protesi la conformità della protesi al medico. Il medico però, per una legge, non è obbligato a darla al paziente, però il paziente la può richiedere. E in questa conformità è un po' come il certificato di garanzia della TV o di un qualsiasi oggetto, dove dice come è stato fatto, come si deve usare, ci sono le informazioni d'uso e c'è poi scritto chi l'ha fatto. Non c'è proprio scritto nome e cognome, c'è un ID, un codice, cioè un numero, un codice che è iscritto al Ministero della Sanità, e quindi qualsiasi persona può ritrovare chi ha fatto il proprio lavoro andando nel sito del Ministero, cliccando il numero di codice della conformità e viene fuori il nome di chi l'ha fatto. Questa è una garanzia un po' anche per il paziente, perché dice vabbè, è stato fatto da un laboratorio italiano in conformità con delle regole. Certo, sono regole europee, poi tra l'altro, perché è una direttiva europea la 9342. Certo. Insomma. È la tracciabilità del prodotto, insomma, come dovrebbe essere un po' per tutte le cose. È proprio una tracciabilità. Questo è una cosa molto molto importante. Con questo documento il paziente si tutela un po'. E già lo richiedono questo documento tutti quegli enti che sono assicurativi riguardo dei pazienti, quindi chi ha un'assicurazione dove viene pagato il dentale, oggi come oggi chiedono sia le LAF, la cartella clinica e quant'altro, ma anche se c'è in caso di protesi questo certificato. È una comprova che è fatto bene, ecco, questo va detto, insomma. Eh beh, ed è utile che lo possiamo raccontare anche attraverso le nostre frequenze su questa trasmissione, che apre anche un po' gli occhi su certi aspetti che magari normalmente non sono così evidenti. Certo. C'è qualcos'altro che vogliamo raccontare prima di salutarci? Sì, mi piacerebbe, come un'esperienza che è stata fatta a Roma, che gli odontotecnici aprissero le porte a chi volesse vedere proprio come va costruita una protesi. Tutte le persone che entrano in laboratorio e vedono mucchietti di sabbia, di terra, e dicono questi sarà, una volta cotto, la ceramica dentale. Il percorso di visita dentro un laboratorio, per le persone che non conoscono, è una cosa un po' appassionante, perché vedono fusione, vedono computer, vedono scanner, vedono forni. È bello, insomma. Almeno tutte le persone che hanno visto il laboratorio sono incuriosite. Sono incuriosite. Quasi. Certo. E volevo chiedere in ultima cosa, per essere odontotecnici che tipo di studi bisogna fare? Dunque, oggi come oggi il percorso di studio è la scuola professionale, anche se purtroppo in tutta Europa invece è un percorso di laurea, breve ma è un percorso di laurea, eccetto per la Germania che è un percorso di masterato. In effetti qui ci stiamo un po' anche diciamo, adoperando noi come associazione per poter elevare la cultura, elevare anche in Italia a un titolo o di masterato di laurea per rientrare nei parametri europei. Questo cosa serve? Un nostro odontotecnico che va a lavorare all'estero, il nostro titolo non è più valido. Non è valido, insomma, per uniformare. Sì, perché c'è Europa. Una legge europea che prevede, come c'è stata l'unione monetaria, hanno tolto le frontiere e quant'altro, c'è anche la volontà dell'Europa di avere la parità di titolo. È giusto. Bene, grazie ad Andrea Meneghini, presidente del sistema di categoria odontotecnici di UPA, che ci ha un po' illustrato questo interessante mestiere, quello dell'odontotecnico. Grazie e buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. E in chiusura di A Regola d'Arte, come sempre, lanciamo un servizio dell'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Per avviare un'impresa c'è l'ufficio startup d'impresa. È il punto di riferimento per chi vuole mettersi in proprio o consolidare la propria attività. Un unico luogo per trovare tutte le risposte alle esigenze della propria azienda. I servizi startup impresa offerti agli associati sono: punto di accoglienza startup aziendale in Piazza De Gasperi a Padova. La gestione e la compilazione della modulistica per startup e anche la procedura telematica delle pratiche Comunicastar Web, quindi Camera di Commercio, Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, per l'invio telematico delle iscrizioni, delle modifiche e delle cessazioni. La gestione e la compilazione modulistica per deposito bilanci con invio telematico, il Registro Imprese CCIA, procedura telematica SUAP di tutti i comuni con utilizzo di vari portali, pratiche telematiche F-Gas su Camera di Commercio di Venezia, pratiche telematiche bandi per concessione di contributi Camera di Commercio di Padova, consulenza normativa con il Comune di Padova relativamente al commercio e attività legate ai servizi alla persona, gestione sgravio cartella esattoriale presso la CCIA, consulenza su quesiti posti dal pubblico del mandamento di Padova, consulenza su quesiti posti dai colleghi delle sedi UPA territoriali, compilazione modulistica soci UPA Padova, visure camerali di tipo ordinario storico e certificati, rilascio contrassegni per veicoli commerciali ZTL Jolly e rinnovo blocchi fissi, compilazione e presentazione modulistica cartacea alla SIAE relativamente alla convenzione Confartigianato. Per ulteriori informazioni, ufficio Startup Impresa allo 049 8206 355. Si chiude quindi l'appuntamento con A Regola d'Arte, che torna la prossima settimana. Un saluto a tutti e grazie da Francesco Galante. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.